meditazione sonora colorata. Ascolto l'eco di colori con vernice colata. Quindi è assodata la questione. Colori audio e la missione, dettiamo la formazione. Virux più beto uguale vibe, arcobaleno di onde sonore. Per le tue giornate grigie ti dirige in meno di un battibaleno al settimo cielo. Virux prepara le valigie. Salgo al settimo piano con la scala cromatica, senza scorciatoie né ascensore né scala automatica. È come se fosse un'automatica che spara proiettili a vernice e dipinge una sagoma. Qui si rielabora la trasmissione di un colore audio, collaudate non vi è autocollisione. Quoto l'autoproduzione per il piano di mettere in funzione il motore della foto che spingiamo. È chiaro che il colore tende sul chiaro. Mostro foto del vuoto in formato traccia audio. Arena 051 Nido Sound è il progetto. Tanti colori messi a caso a fare un ordine perfetto.